Forse anche voi siete state colpite dal Vangelo di oggi, non so se l'avete fatto come oggetto di altre meditazioni. Devo dirvi che a me ha colpito molto, anche se l'ho letto chissà quante volte, quella frase che dice Dio Padre a Gesù nella teofania della trasfigurazione che racconta San Matteo. E ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Siamo sul monte della trasfigurazione e erano appena apparsi Mosè ed Elia, conversavano insieme con Gesù. Cioè, nell'italiano non si vede una frasetta che nel greco c'è proprio insieme con lui, cioè, si vede che proprio c'era un clima molto familiare, no? Tra questi tre. E poi dopo anche Pietro lo coglie e qui dice: facciamo tre capanne, no? Il padre dice: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. E sono andato a rivedere quell'altra. San Matteo racconta di un altro episodio in cui il padre, diciamo, fa sentire la sua voce, ed è dopo il battesimo, no? E anche lì dice la stessa cosa: il figlio mio l'amato, no? E allora io ho pensato: Gesù, come mai il padre dice questo, e il Vangelo lo riporta di San Matteo, che tu sei l'amato? E forse perché vuole svelare qual è la vita all'interno della Trinità, e in effetti è una vita d'amore, no? Però tu Gesù lo sai già che sei amato, perché come Dio lo sai, no? Come figlio di Dio, come verbo eterno del Padre, sai che il Padre ti ama eternamente, tanto che questo amore è lo Spirito Santo, no? Quindi le persone divine si amano e addirittura sono l'amore, no? Cioè lo Spirito Santo è l'amore, per cui hanno bisogno le persone, gli discepoli, di sapere che tu sei amato da Dio, no? Forse sì, no? Però è bello che il padre dica questo. Cioè, quando deve parlare di suo figlio non dice il perfetto, non so, no? Quello che non sbaglia mai, oppure, no? Il falegname migliore di Nazareth, no? Oppure quello che ha la veste inconsutile più bella di tutta la contea. Non dà altre qualità, l'obbediente, non so, anche cose di virtù. Poteva dire Dio Padre, no? Le altre volte forse lo dice, però in Matteo le due uniche volte che Dio Padre parla di suo figlio dice l'amato, il figlio mio l'amato. È come un soprannome di Gesù, eh? Gesù detto l'amato, l'amato da Dio. Io capisco che Gesù, tu poi sei, adesso passando al Vangelo di Giovanni, sei quello che meglio di chiunque altro può dire: guardate che Dio stesso vi ama, il Padre stesso vi ama, Tu che sei consapevole di essere amato puoi dirlo a noi. E a me veniva in mente, ma dal punto di vista umano, perché Gesù come verbo eterno del Padre sa di essere amato, ma come uomo, perché Gesù come uomo è uguale a noi in tutto tranne che nel peccato, per cui anche si potrebbe studiare, non lo dico così come intuizione, che anche tu come uomo hai bisogno di sentirti dire che sei amato. Questo ci sta dicendo il Padre nel dire il figlio mio l'amato, vuol dire che anche tu, buon Gesù, nel battesimo, cioè prima di cominciare tutta la tua vita pubblica, fra l'altro doveva fare, cominciava bene, 40 giorni nel deserto, senza mangiare, quindi aveva bisogno di sentirsi amato, perché se no lì nel deserto magari al 20° giorno diceva: ma qui non c'è nessuno che mi vuole bene, che mi porta una brioche, no? Con il cappuccino. Quindi senti, sentirsi amato gli serviva a fare 40 giorni nel deserto di prova, pure col demonio che arriva, e lui, no, insomma, a tentarlo, no? Mettici pure questa, no? Già il deserto è deserto, poi fa freddo di notte, fa caldo di giorno. Aveva bisogno, tu Gesù, io dico questo, poi mi farai capire se mi sbaglio, che tu anche come uomo, come perfetto uomo, hai bisogno di sentirti dire ti amo, come tutti gli uomini del mondo, tutte le donne del mondo. Io leggo questo in questo brano del Vangelo, in questa come mai Gesù, il Padre, quando parla davanti a tutti e parla a te, ti dice l'amato. E da lì tu prendi la forza, possiamo dirlo così? La forza per, appunto, per tutta la tua vita pubblica. E adesso nella trasfigurazione, che è il Vangelo che si legge oggi nel rito romano, e comunque nel rito romano si leggeva ieri sera nella celebrazione vigiliare, prima di intraprendere il tuo viaggio verso Gerusalemme, no? Cioè, e San Matteo non dice che Mosè, Elia e Gesù parlano, ma un'altra versione, credo quella di Luca, dice parlavano della sua dipartita a Gerusalemme. Quindi stanno parlando della croce, di quello che avverrà, no? E anche tu Gesù cambi forma davanti ai tuoi discepoli. Questo il greco letteralmente dice cambiò forma, no? Davanti ai suoi discepoli, e hai una luce così splendente come il sole, e hai una veste così bianca come la luce, per aiutare i tuoi discepoli a reggere lo shock della croce, e anche forse i tuoi discepoli, sapendo che tu sei amato da Dio, non riusciranno a reggere un po' di più quello shock della passione, perché com'è possibile? Cioè, tu sulla croce diventi il condannato da Dio, secondo la tradizione di Israele, il maledetto da Dio, e invece Dio dice: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. E Maria, visto che voi, pensando appunto all'apostolato che il Signore ci chiede, ad aprirci a tutti, no? Ad andare da tutti, come il Papa ci chiede chiede a tutta la Chiesa, nell'Evangelii Gaudium in particolare, ma e il Padre ci chiede, facendo eco anche a quello che anche Don Javier, il padre precedente, ci diceva, e nella sua lettera cita proprio all'inizio una frase molto lunga e bella di San José Maria, in cui il nostro fondatore ci dice: non è vero che tutto il mondo attuale, globalmente considerato, sia chiuso e indifferente a ciò che insegna la fede cristiana circa il destino e l'essere dell'uomo. Non è vero che gli uomini di oggi si occupino soltanto delle cose della terra e non si curano più di guardare il cielo. E allora io dico: ah, che bello, no? Allora dai, piantiamola con le teorie, no? Con le teorie millenariste, così di negative. Non è vero, avviciniamoci a loro, a tutti, no? Infatti la Sua dice a tutti costoro, uomini e donne, dovunque si trovino, nei momenti di entusiasmo, nei momenti di crisi o di fallimento, noi dobbiamo far giungere l'annuncio solenne e categorico che San Pietro fece nei giorni che seguirono la Pentecoste: Gesù è la pietra d'angolo, il Redentore, il tutto della nostra vita, perché al di fuori di Lui non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati, come dice San Pietro nel suo discorso dopo la Pentecoste. E Maria, tu che vieni chiamata la madre dell'evangelizzazione, la stella dell'evangelizzazione, qual è il motivo? Che sei la madre di Gesù che è il Salvatore, e tu l'hai portato al mondo, quindi sei la madre di tutti coloro che vogliono portare Gesù al mondo. Ma volendo mettere l'attenzione proprio su questo aspetto, Gesù l'amato, anche in Maria io penso che possiamo notare nella sua storia che lei, proprio perché si sente amata da Dio, è in grado di affrontare tutto quello che la sua vocazione le chiede. Quando cioè, e l'angelo Gabriele cerca di dirglielo: Maria, tu sei amata da Dio, tu sei la piena di grazia, che vuol dire la piena di amore di Dio, cioè Dio ti predilige, ti ha scelto tra tutte le donne, no? E anche poi hai trovato grazia presso Dio. Ed Elisabetta, lo Spirito Santo attraverso Elisabetta le dice: tu sei la benedetta tra tutte le donne, tu sei la madre del mio Signore. E allora lei dice nella sua preghiera, magnifica quelle poche cose che sappiamo della sua preghiera: la mia anima magnifica il Signore, cioè dice il Signore è grande, il Signore è buono, il Signore mi ama, perché appunto ha fatto grandi cose dentro di me, e per questo tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cioè Maria sì, è consapevole nella sua umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva, la piccolezza della sua serva, la bassezza della sua serva, e consapevole, tu Maria sei consapevole che Gesù ti ama infinitamente, e con la forza di questo amore, che poi tu lo vedi concretizzato nel fatto che ti ha scelta come madre del suo Verbo, ti ha affidato se stesso, lui, la seconda persona della Trinità, diciamo noi oggi con un vocabolo che lei non usava, per farlo crescere nel tuo seno, poi per allattarlo, per custodirlo, per educarlo anche, no? Come uomo. Quindi la fiducia infinita di Dio per te, l'amore infinito di Dio per te, ti permette di affrontare tutte le difficoltà della vita, tutti i risvolti della vocazione, e ti aiuta a portare Gesù, ad accompagnarlo verso il compimento della sua missione. Sei tu che lo aiuti a cominciare i suoi segni nella nozze di Cana, sei tu che lo accompagni sempre, sei tu che lo sostieni fin sotto la croce, molto di più di quello che riusciamo anche a vedere nel Vangelo, molto di più. E io penso che, ecco, infatti è quello che il Papa dice nell'Evangelii Gaudium, quando alla fine, dopo aver detto tante cose molto importanti in questa lettera e in questa esortazione apostolica, parla di Maria stella dell'evangelizzazione e dice, fra l'altro, vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono la virtù dei deboli, ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia, e anche colei che conserva premurosamente tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili. Allora noi possiamo pensare che appunto forse Maria è madre dell'evangelizzazione proprio perché ci dà questa strada, e Gesù stesso ha bisogno di sentirsi amato, di sentirsi dire che è amato per affrontare le difficoltà. Pensate nell'orto degli ulivi, ha avuto bisogno di avere accanto tre discepoli che lo confortassero, che gli facessero compagnia, che lo sostenessero, poi si sono addormentati. E allora è arrivato un angelo. Ha bisogno di aiuto, questo perché noi non ci meravigliamo di aver bisogno di questo. Tutti abbiamo un immenso bisogno di sentirci amati da Dio. San Paolo scrive ai Romani, dice, amati da Dio, ai cristiani, no? Dice anche in altre lettere, saluta gli amati da Dio. Abbiamo un bisogno immenso di sentirci amati da Dio, e tu, Signore, sai che molto spesso questo amore ci viene passato dagli altri che stanno vicino a noi. Fratelli e sorelle nella fede, no? Parenti, amici e conoscenti, le stesse persone a cui noi portiamo il messaggio di Gesù, poi molto spesso, anche quando non lo accettano, però sono grati e ci amano, ci ringraziano, ci incoraggiano, ci confortano. Noi abbiamo bisogno di questo. Per questo tu, Maria, sei la madre dell'evangelizzazione, perché ci insegni la via della la rivoluzione della tenerezza, perché si diciamo, perché esplodano tutte le capacità apostoliche del cristiano, dell'essere umano e di noi che abbiamo la vocazione all'Opus Dei, e che è quello che il Padre anche desidera con questa lettera che ci ha scritto. Cioè, io ho notato, siccome ho un pochettino, mi piace il tema, l'ho studiato un po', che 3 volte parla di tenerezza il Padre nella sua lettera, al numero 9, 15 e 31, se non ricordo male. E poi 2 volte, ma posso rivedere forse anche altre volte, quando parla dello Spirito Santo dice: lo Spirito Santo, virgola, amore infinito. Poi dice: lo Spirito Santo, virgola, carità increata. È bello questo, no? Che forse ce ne sono altre, ma insomma la lettera è appena arrivata, la sto un po' lavorando, potete trovarle anche voi. Ma il Padre stesso è grato dell'amore che sente da noi, e ce l'ha detto nella sua prima lettera, no? E anche adesso dice: mi pare, no, che lo dica, comunque lo diceva, dice che è meravigliato di questa grande unità che vede nell'opera, cioè, e voleva ringraziare tutti, ecco, la lettera è anche oggetto di affetto da parte del Papa che gli ha scritto una lettera, lui aveva scritto una lettera ringraziandolo della nomina, e il Papa gli ha risposto, cosa che non è di prassi, no? È un di più del cuore di un padre che, no? Che dice al suo figlio, che in questo caso è il padre di questa piccola porzione dell'opera, dice: ti voglio bene, ti incoraggio, no? Io ho sentito raccontare che a un sacerdote del Guatemala che veniva qua a Roma per un incontro di parroci che hanno fatto, e sono tanti, abbiamo scoperto che sono tanti i sacerdoti dell'opera che si occupano nel mondo di parrocchie, di chiese, no? 150 se non ho capito male, e sono sparsi nel mondo, ma, e hanno fatto un incontro per scambiarsi esperienze. Allora lui si è trovato col Papa in prima fila all'udienza, gli ha detto: santità, adesso vado a pranzo dal prelato dell'opera, gli posso dire qualcosa da parte sua? E il Papa ha pensato un attimo e ha detto: sì, digli che mantenga questa serenità e questa pace che ha. Bellissima, no? E poi ho sentito dire che ad altre persone che ha incontrato ha fatto delle bellissime lodi, no, del nostro prelato. Ma questo serve, aiuta, cioè le lodi, il sentirsi amati, il dirsi ti voglio bene, e sentirsi incoraggiati, ma anche quando facciamo errori, no? Anche quando facciamo errori. E il Papa cerca di farlo appena può, no? Quando queste telefonate che fa, quando ho sentito anche raccontare questo, quando è tornato dalla Svezia, da quando è andato per i 500 anni di Lutero, no? Gli è stato accanto tutto il tempo un sacerdote dell'Opus Dei, no? E gli ha fatto da traduttore, che peraltro io conosco, ma non è per quello che è stato accanto al Papa. E anche lui si chiama Jorge, eh? E il Papa, appena tornato a Roma, ha telefonato a Don Carlos, che conosce, c'ha il telefonino, e di al prelato che è stato contentissimo sia di quello che fa l'opera lì come lavoro ecumenico, e sia di questo sacerdote bravissimo che mi ha seguito in tutto, che è una persona fantastica, no? Capite? La lode, il sentirsi amati da parte del padre, no? Sempre del padre e delle sorelle e dei fratelli, e questo è quello che ha sperimentato Gesù per prima, ha sperimentato Maria, e che ci apre questa strada, cioè Maria stessa ha dato a Gesù continuamente il suo affetto di madre, e Giuseppe anche, cioè se volevi, gli psicologi potevano dire, ma Gesù dal punto di vista umano era il figlio ideale, perfetto, perché quale madre e padre migliore, no? Per ricevere amore da loro, quindi una personalità armonica, assolutamente. Eppure anche Gesù ha bisogno di questo. E infatti poi Gesù che cosa fa? Ce lo dà. Io, visto che, ecco, possiamo, se volete, in questa domenica nel rito ambrosiano è la domenica della Samaritana, invece nel rito romano si farà la settimana prossima. Però quell'incontro di Gesù con la Samaritana, noi possiamo leggerlo, o rileggerlo, meditarlo, proprio in quest'ottica, cioè quanto Gesù ha detto a questa donna, di fatto, attraverso una parola, un'altra, che la amava. Che la apprezzava, che la prendeva dentro di sé come con tutta la sua dignità. Lei si sorprende all'inizio: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Cioè, aveva nella cultura del tempo molti motivi Gesù per non badarla nemmeno, sia perché era una donna e un rabbi non parlava con una donna, non contavano nulla, sia perché era samaritana, che vuol dire eretica, e che un giudeo diventava impuro a parlare con un samaritano. Allora la donna, certo, si sente apprezzata, anche coinvolta. Ho bisogno di te, ho bisogno della tua acqua, non c'ho la brocca, ho molta sete, mi dai una mano? Poi dopo continua a dirle sempre di più, no, sempre di più che la ama, perché poi le dice, perché lei le dice, se tu conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti dice dammi da bere, di fronte alla sua obiezione, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Cioè le sta dicendo, io sono disposto a darti quest'acqua, no? E anch'io, tu mi dai la tua acqua del pozzo, io ti do un'altra acqua, e così via. Un passo dopo l'altro, questo brano del Vangelo può essere per noi esemplare di qualunque dialogo a tu per tu, con qualunque persona, sia una persona che appunto non appartiene alla Chiesa Cattolica o è battezzata ma ha dimenticato, ha anche abbandonato la fede, sia una persona che invece è credente ma poi è lontano non vive la vita cristiana così attraverso la frequenza dei sacramenti, eccetera, no? Sia una persona che ha una vocazione all'interno della Chiesa di chiamata alla santità e all'apostolato, e che noi possiamo essere chiamati ad aiutare ascoltando per esempio il suo colloquio di direzione spirituale. E questo modo, Gesù, che tu hai di rapportarti a lei per me è paradigmatico, cioè mi aiuta a capire come dobbiamo fare, perché tu le stai dicendo passo dopo passo che la stimi, la valorizzi, credi nella sua dignità di creatura, nella sua capacità di capire il dono di Dio, se no gliel'avresti proposto. Non badi al fatto che è samaritana, che è donna, non c'è più né donna né uomo, dice San Paolo, con l'avvento di Gesù Cristo, nel senso che non c'è la differenza, come si dice, la discriminazione, giudeo, greco, sono tutti uguali davanti a Dio. E le stai dicendo anche quando le dici, perché quando lei dice dammi di quest'acqua, no, l'ha capito un po' in parte, non ha capito bene di che si tratta, ma perché non venga, continui a venire qui ad attingere acqua, pensa che sia un'acqua naturale così miracolosa, ma... E Gesù le dice, vai a chiamare tuo marito, non ho marito, in questo hai detto il vero, ne hai avuti cinque, quello che hai adesso non è tuo marito, in questo hai detto il vero, cioè... Noi non sappiamo i primi cinque mariti se erano situazioni sbagliate, perché magari no, magari è vedova di cinque mariti, no? Però quello che adesso, allora lei si sentiva un po' a disagio in una situazione che poteva essere considerata di peccato probabilmente. In questo hai detto il vero, cioè anche in questo Gesù trova il modo di dirle io non ti condanno per questo, io ti capisco, poi e quando lei fa una domanda sulla preghiera, sull'adorazione, la rilancia, dice non qui, non sul monte, né come i samaritani né come i giudei, c'è un momento in cui tu puoi fare la preghiera dei figli di Dio, puoi fare la preghiera ovunque, quando vai a prendere l'acqua e quando fai tutta la tua vita normale, cioè le propone, possiamo dire così, una vocazione da contemplativa in mezzo al mondo. E a quel punto la donna dice so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa, sono io che parlo con te, cioè gli svela Gesù a lei tutta la sua intimità, non ha veli, non ha segreti, si fida di lei. E infatti lei cosa fa? Corre, beh, intanto arrivano i discepoli a rovinare le cose, no? Perché potevano dirsi un sacco di altre cose, arrivano i discepoli col cibo, no? E vabbè, pazienza, dialogo finito. Allora lei lascia lì la brocca, cioè ha già l'acqua viva nel cuore, e corre dai compaesani prima che se ne vanno, perché magari i discepoli gli dicono andiamo via. Venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, sarà forse il Messia. Cioè, il sentirsi amata da Dio, da Gesù, ha trasformato questa donna da assolutamente ignara persona che probabilmente aveva un sacco di problemi, non lo so, e forse anche maltrattata o soprattutto mal giudicata anche dai suoi compaesani, perché veniva a prendere acqua in un'ora in cui non c'era tanta gente. L'ha trasformata in apostolo del Signore. Io penso che quindi se noi desideriamo, e lo desideriamo, rispondere Gesù al tuo comando di essere tuoi apostoli, come dice il padre nella sua lettera, no? Dice non facciamo apostolato, ma siamo apostoli in ogni momento, no? E in ogni momento della nostra vita, in ogni circostanza della nostra vita, dovunque siamo, dovunque lavoriamo, dovunque, con qualunque persona stiamo, con molta naturalezza, con molta semplicità, viene fuori dal tuo sorriso, viene fuori dal tuo sguardo, viene fuori dalla felicità che i pori della tua pelle trasmettono, dalla tua eleganza, da tutto quello che vuoi tu, dalla tua simpatia, da tutto, la tua persona che parla di Gesù, perché ce l'hai dentro. noi siamo amati da Dio e il Signore ci ha promesso, verremo a Lui, faremo dimora, prenderemo dimora presso di Lui, noi mangiamo il tuo corpo e il tuo sangue, tu abiti in noi, noi ti portiamo in giro, noi siamo cristofori, cioè portatori di Cristo sempre, ovunque, perché tu ci hai donato la tua compagnia, la tua grazia, la tua l'identificazione con te. Però per togliere il tappo, per dare la stura a questa nostra possibilità di parlare di te o di semplicemente di manifestare te con il nostro modo di essere, di fare e di amare, tu Gesù ci dai l'indicazione e tu Maria sei madre in questo, devi sentirti amato da Dio. Possibilmente, ma questo non possiamo pretenderlo, possiamo solo accoglierlo, possiamo fare come diceva San Giovanni della Croce, dove non c'è amore, metti amore, troverai amore, fare in modo che le persone che tu conosci, che stanno con te, che abitano con te, della tua famiglia, ti possano amare. E allora così, ecco, pensate, no? Quando la vita di famiglia, diceva San José Maria, che è tutto questo calore che poi dopo a uno viene voglia di riprendere la guerra d'amore e di pace, che è un modo di dire, no? La battaglia d'amore e di pace, cioè distribuire, cioè diffondere l'amore e la pace, diffondere l'amore di Cristo e la pace di Cristo, che è inimmaginabile, che è molto di più della pace umana. Sentirci amati per essere apostoli. E amare perché tutti coloro che noi amiamo possano cogliere nel nostro amore l'amore di Cristo e di Maria, madre dell'evangelizzazione, e del Papa e del Padre, che nell'opera ha questo compito paterno di essere immagine di Dio Padre che ci ama, diceva lui, no? E nella sua lettera lo dice, no? Che ha questo compito di essere, di partecipare alla paternità di Dio. Allora così, se tutte le persone che noi incontriamo si sentono amate, diventano come la Samaritana, subito apostoli. Perché cosa portano in giro? L'amore di Dio. Noi siamo debitori al mondo, come diceva Giovanni Paolo II, di questo messaggio, Dio ti ama. È così bello che sembra fin troppo semplice, ma è così efficace, no? Chiediamo al Signore la grazia in questa Quaresima di capirlo un po' meglio, ma soprattutto di viverlo, di farlo nell'esperienza, noi e gli altri intorno a noi, con la luce, l'aiuto di Maria, madre dell'evangelizzazione. Ecco, che sia vero anche per noi quello che il Papa dice di te, no? Che tu ci apri questa strada, no? Questa strada e ci aiuti a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto che sono la base di ogni apostolato cristiano.